qualcuno? Chi è? Ciao, io sono Corrado. Ciao Corrado, io Luca, piacere. Va, come mi ascolti? Ma sei in macchina? E dove ti trovi? Ma sei bassissimo, molto basso arrivi qua. Per essere lì ad Euronix. Vabbè, quello che conta è l'antenna, non è il baracchino. Ma l'antenna? Certo, quello che conta è l'antenna, non il baracchino. Io anche il rosmetro, lo saratta, però deve essere che è sbagliato qualche posto, o è l'antenna che non vale un cazzo. Sicuramente sì, dai. Perché da lì a me non mi deve arrivare, non dico a fondo scala, cioè segnale massimo, ma almeno 9-10 così, arrivi bassissimo. Io sono a casa, Per caso senti di ronzi da parte, cioè senti qualche rumore strano, aspetta, sulla porta antemuta. Sentivi ronzi? Ho detto, sentivi qualche rumore? Senti. Il furgone è carico pieno. Ah, ferro porti. Ah, ce l'hai da poco il baracchino. Basso, a parte che rischi anche di bruciare il baracchino. Pure di domenica lavori, ho detto pure di domenica lavori. Però mi CQ10. CQ10. Non ci sono riuscito, come va? No, questo corri di cito. Ma su Windows 10 già funziona già. Certo che funziona, funziona per tutto. Non sono riuscito a fare il download. Ce l'ho nel computer di Uber che c'ho Windows 10, per cui funziona tutto, no? Non ho mai avuto problemi, mai. Ma io la fa sentire? Ehi, fammi sentire. Sentite, ma non la conosco. Non la conosco per niente. E io ho sentito per favore, lo trovo per Italia. Vedi, sto parlando al buio con me tra le mie braccia, e vedi luci sull'erba, ascoltando la vostra canzone preferita. Quando hai detto che io ti sacro, ho sussurrato sotto il mio respiro, ma hai sentito che sono, sei perfetta stasera. Sì, sì, canta canto. Già nel caldo è innamorato, mi ha detto. Ho detto che già nel caldo è innamorato. Mi sa di sì, eh. Ehi, è bella canzone, eh. Ma mi prendo un bello da cantare, ma non mi sa che il telefono come sono io. Sì, bella è in tasca. Non ti piace, ragazzi? No, non mi piace perché quella voce è una voce fatta al computer. Non è una voce, cioè è una voce vera, però è stata corretta con un effetto. E no, a me quelle voci robotizzate non mi piace. No, non è robotizzata, forse si sente così al microfono. Secondo me perché il microfono c'ha l'eco, adesso te lo sentite così. No, non è che l'ho sentita così, io non è che la conosco, da qualche altra parte l'ho sentita, però vabbè, non posso spiegarti tutta la motivazione perché. Tecnicamente parlando, utilizzano mentre cantano un effetto che si chiama autotune. E quell'autotune io lo conosco subito appena lo utilizzano, perché c'ha quella voce un po' particolare. È molto sensuale la voce, molto romantica. E infatti qui si tratta di una canzone romantica, che parla di due che si sono conosciuti da giovani, capito? Sì, una canzone di Roma, romantica. Fantanino, perché sei romantico. Sì. Già nel caso. Ma sai che ho visto già città mercato, Fantanino? Antonio Lodentice. Ah. Era con Antonio, uno del Ciso, non so se tu lo conosci Antonio, ho visto che vado agli biciti grossi. Che fa murato. Nel tempo ancora si è sposato, sì, sono già sposato, sì, da tanto già. Allora, te com'è che ti sei sposato oggi? Anche lui è vecchiato. A pensare quando l'ho conosciuto, che era un giovinastro, c'aveva 127, ve lo ricordo, era appunto, c'era la 1, e la 1 collocata al zucchero. Ripeto, sguardo il telefono, capito? Con chi ce l'hai, Stefano? Ce l'ho con Natalino. Ah, beh, dicevo io che ci avessi potuto avere con me. Che fine hanno fatto tutti gli altri componenti di questo canale? Arrestato? Ma nessuno, ho messo anche un po' di musica per vedere se si attirava qualcuno. Questo è la Stefano, ma non l'avevo riconosciuto, giuro, non ti avevo riconosciuto. Magari con questa radio no. Se passiamo a modulare, vedi come cambia la modulazione. Vabbè, ci credo, sono fatte per quello lì, quelle radio, cioè lo so. Banda laterale, FM, sono radio che sono fatte per quella frequenza. Passa in banda laterale a vedere un po', non so dove, un attimino qui, passa. Sì, adesso quando è toccata la, come si chiama, la manopola, si è uscito perfettamente, si è andato proprio nella frequenza giusta. Sì, infatti, quando era spostato Dio si sente subito che era che lì fuori, ma adesso va bene. Natalino, non c'è modulazione, non esci di radio proprio, zero, 9.20 ma zero di radio. Oh, va bene. Ci sono riuscito. A che cosa? A caricarmi quel programma. È un programma per il baracchino. Adesso che sei riuscito, ma su YouTube ci sono tutte le come si chiama? Le spiegazioni passo a passo, come fare. Poi te l'ho detto, non c'è bisogno di interfaccia perché si può fare tranquillamente. Ma un attimo sono al telefono, un attimo mi ha chiamato. Natali, qual è quello lì a te sei? Siamo qua. Natali, qual è quello che ti fa modulare dal computer? Sari? Io ne avevo uno che parlavo con tutta Italia. Andavo sul canale, tutto qua, ci avevo sul canale 10. Adesso fallo col culo. E vaffanculo.